In questo momento, migliaia di aziende e pubbliche amministrazioni erogano i loro servizi attraverso Aruba Cloud, perché costruiamo soluzioni sicure e flessibili, proprio qui, in Italia. Esplora l'universo Aruba Cloud. Personaggi storici preferiti sono quelli che vivono per precorrere i tempi, quelli che hanno vissuto come se avessero sbagliato un'epoca, quelli che magari hanno anticipato per una svista la loro venuta al mondo, quelli che non sono riusciti a collimare con quello che avevano attorno. Ecco, quelli sono i personaggi che io reputo più interessanti, quelli avanti, con il mondo che fa fatica a star dietro a loro e che in tempi brevi fa quasi sempre fatica a riconoscere la loro unicità. E in genere i personaggi avanti vengono riconosciuti dopo, insomma gli onori vengono tributati quando magari il personaggio non c'è più. Insomma, questa categoria di persone appartiene alla protagonista della storia di oggi. Anche il nome non era abbastanza per lei, perché lei nasce come Aurore Dupin e poi col tempo vedremo si ribattezza con un nome diverso. Il nome è solo l'inizio, perché la nostra Aurora ha bisogno di trasformarsi nel profondo e ha bisogno di rivoluzionarsi. Ecco come nascerà nel corso del nostro racconto George Sand, la scrittrice francese più famosa dell'Ottocento, amica di Victor Hugo, di Flaubert, di Balzac, di Alfred de Musset. Peraltro la sua storia è il classico esempio per tutte quelle donne che fino dalla notte dei tempi hanno combattuto per conquistare il loro posto nel mondo senza doversi piegare alle leggi della società patriarcale. Per secoli, insomma, l'arte e la storia ha prodotto figure quasi esclusivamente maschili, proprio perché alla donna veniva impedito in qualche modo di accedere a sfere più alte. Ecco, la nostra protagonista ha aggirato il problema. Le immagini del tempo ce la mostrano, spesso vestita da uomo, col sigaro in bocca. Ma se dimentichiamo per un attimo l'esteriorità, capiamo che ci troviamo di fronte a una donna eccezionale, non comune per niente. Intanto si vestiva da uomo in un'epoca in cui questo poteva significare la prigione. Una che provvedeva a se stessa lavorando, che non credeva nel matrimonio, che parlava, scriveva di politica, intendendosene, non come oggi che tutti parlano e scrivono di politica un po' a caso. E lei si impegnava in argomenti alti, come si suol dire, al pari dei suoi amici maschi, che erano tutta gente di grande livello, peraltro. E questo non tanto per portare avanti un credo femminista ante litteram, non c'era in lei questo genere di rivendicazione. Per esempio non le interessava il diritto di voto, amava ricamare a piccolo punto, amava allevare i figli, e quindi non era una presa di posizione autolesionista, sterile, e per lei tutto quello che faceva era intanto una necessità pratica, e poi lei voleva ottenere rispetto e considerazione per il suo lavoro creativo. In una società, l'abbiamo detto, maschilista, lo era anche e molto la società europea di metà Ottocento. Alle donne era riservato un posto davanti al tavolo di cucina, nel bucato, a letto, ma di certo non davanti a una scrivania. Le donne ricevono un'educazione deplorevole. È quello il grande crimine degli uomini nei loro confronti. Hanno portato l'abuso ovunque, accaparrandosi i vantaggi delle istituzioni più sacre. Hanno speculato persino sui sentimenti più ingenui e più legittimi. Sono riusciti a coronare questa schiavitù e questo abbruttimento della donna, che oggi dicono essere di istituzione divina e di legislazione eterna. Non era una femminista George Sand, però le sue parole erano molto dure contro quel sistema che aumentava e incentivava l'ignoranza delle donne. E lei è una pragmatica. Non aveva denaro, aveva bisogno di lavorare per vivere, lo ha fatto grazie alla scrittura. Però scrivere per una donna non era molto facile a quei tempi, e così a un certo punto fece l'uomo. Era molto prolifica e aveva pubblicato molti bestseller che le hanno garantito poi, nella seconda parte della sua vita, una vita agiata per lei e per i suoi figli, e le hanno garantito anche la stima di illustri contemporanei come Flaubert, come Balzac, che per farle un complimento, e anche questo la dice lunga, per farle un complimento la paragonava a un maschio. È come un maschio, è un artista, è grande, generosa, ha lineamenti d'uomo, ergo non è una donna, è un uomo che vuole essere tale, è uscita dal suo ruolo di donna. La donna attrae ed ella respinge, sarà sempre infelice. Così ella ama sempre uomini che le saranno inferiori. E in tali condizioni una donna che ha una bell'anima non può che incontrare disincantamenti e illusioni. Aurore Dupin nasce a Parigi nel 1804, nel mese di Messidoro, come si diceva allora. Secondo il calendario rivoluzionario, in realtà stiamo parlando di luglio. La sua è una famiglia particolare. Il padre, Maurice Dupin de Franceul, è un aristocratico che discende da un maresciallo di Francia. La madre è una popolana, quindi lei è frutto di una unione bizzarra. Bizzarra mica tanto, insomma, il ricco e la povera. Succede anche oggi, basta che la povera sia molto carina. Mondi socialmente agli opposti, un misto di alti e bassi che le permetterà in futuro di sentirsi enormemente libera. Uno non è solo il figlio del proprio padre, ma anche un po', penso, quello di sua madre. Mi sembra che sia normale aggrapparsi a quel grembo che ci ha portato nel modo più immediato, più potente, più sacro. Ora, se è vero che mio padre era il bisnipote di Augusto II, re di Polonia, e se da questa parte mi trovassi illegittimamente, ma realmente in stretta relazione con Carlo X e Luigi XVIII, non è meno vero che io mi sento legata in un modo ugualmente intimo e diretto al popolo, grazie al sangue di mia madre. Inoltre, non ci sono bastardi in quella parte di famiglia. Durante le guerre napoleoniche, Maurice Dupin si trova a combattere al fianco di Murat sul suolo spagnolo e porta con sé la piccola Aurore, che ha 4 anni, e la moglie, che è incinta di un figlio. Quando nasce il piccolo Auguste, però è cagionevole, è gracilissimo, insomma muore dopo appena qualche mese. E la sfortuna vuole che pochi giorni dopo muoia anche lui, il padre Maurice, dopo una banale caduta da cavallo. Insomma, la moglie è sconvolta, deve trovare subito una soluzione che garantisca la sopravvivenza a lei e alla figlia, e non ha altra scelta che andare a bussare alla porta della suocera ricca, Marie Aurore de Saxe, e deve adattarsi a vivere nella proprietà della suocera, il castello di Noarte. Una convivenza che non dura molto, le due donne non si possono soffrire, e alla fine lei cede, la nuora, e in cambio di una rendita va a vivere a Parigi e lascia Aurore alla nonna, che diventa l'unica tutrice della bambina. Mi dicevo che mia madre non mi amava quanto io amavo lei. Ero ingiusta in questa circostanza, ma in fondo era la rivelazione di una verità che ogni giorno che passava doveva confermare. Mia madre provava per me, come per tutti gli esseri che ella aveva amato, più passione che tenerezza. La donna di Aurore è la tipica donna colta, illuminista, è intelligente, arguta, affida la nipote a un precettore che le insegna aritmetica, storia, filosofia, però la mette in condizione di imparare anche la scherma, di andare a cavallo come un ragazzo, si sarebbe detto. Forse è qui che vengono piantati i semi del suo amore per la libertà personale, in questo castello rischiarato proprio dalla nuova ventata, dall'ingegno illuministico. In fondo, a pensarci bene, lei deriva più, grazie alla nonna, dalle grandi protagoniste dei salotti dell'Ancien Régime del XVIII secolo, piuttosto che alle suffragette, alle passionarie che verranno decenni dopo. Ma nonostante la guida di questo precettore e anche della nonna, lei viene anche lasciata al suo istinto. Insomma, gran parte del suo anticonformismo, di quell'anticonformismo che caratterizzerà la sua vita adulta, è sicuramente il risultato di questo tipo di libertà goduta durante l'adolescenza. E a 15 anni arrivano i classici conflitti degli adolescenti, con la nonna in questo caso. La nonna la mette in convento, lei ci rimane 3 anni, come dice lei, 3 anni senza paura, rimpianti e ripugnanza. La lontananza però ricongiunge le due donne, al punto che per lei, quando la nonna muore nel 1821, è un colpo terribile, e in fondo il suo punto di riferimento era questa nonna, che peraltro dimostra amore per la nipote anche post mortem, perché la lascia unica proprietaria del castello di Nohant. Ritorna la madre nella sua vita, ma lei sente il bisogno di emanciparsi, cosa che a quei tempi si fa in un modo solo, sposandosi. Lei non è ancora diventata George Sand, quindi si adegua al suo stato di cose, incontra un barone, Casimir Dudevana, 10 anni più di lei, accetta la sua proposta, forse più per amore di indipendenza che per amore di lui. Trovai sincerità nelle sue parole e nel suo modo di essere. Non mi parlava mai d'amore e confessò di essere poco disposto alla passione improvvisa, all'entusiasmo, e in ogni caso era incapace di esprimerlo in maniera seducente. Parlava di amicizia a tutta prova. Dopo il matrimonio, Casimir diventa buon amministratore delle terre e dei beni di Aurore, però in realtà è un uomo inferiore alla moglie per spirito, per intelligenza. Non capisce che lei è dotata di una sensibilità fuori dal comune e che sta sentendo di condurre un'esistenza monotona. Non migliora le cose neanche la nascita del figlio Maurice. Lei è una donna infelice, si ammala, i medici le prescrivono come rimedio le acque dei Pirenei, e soprattutto il rimedio è che lei ai Pirenei ci va da sola. Ancora da sola, Aurore va a Bordeaux e qui si può mescolare al mondo degli intellettuali, si circonda di amici che hanno a cuore la conoscenza, si dedica alla poesia, all'arte, alla scienza, e tra le nuove conoscenze c'è un giovane studente di giurisprudenza, si chiama Jules Sandeau, è un poeta a tempo perso, ma di tempo ne ha per diventare suo amante, e non è il primo, perché già quando era a Nohant Aurore aveva una relazione con un vicino che probabilmente è il padre della sua seconda figlia Solange. Ma è con Jules Sandeau che lei pensa di avere finalmente trovato la risposta ai suoi patimenti, e per lui decide di lasciare definitivamente il marito, che intanto ha iniziato a bere, che è diventato anche un violento, però deve conquistarsi la libertà a caro prezzo. Lei non può divorziare, quindi lascia le sue proprietà in ostaggio a Casimir, e in quegli anni si usava così. Poi, diciamo, più avanti succede il contrario, tutte le proprietà vanno alla moglie, questo diciamo nel dopoguerra. Allora funzionava così, lei ottiene solo una piccola rendita per andare a vivere con Jules. Mi ci voleva un'anima ardente per amarmi quanto sapevo amare io. Jules mi ha strappato a un'esistenza di cui ero stufa e che sopportavo solo per dovere verso i miei bambini. A 26 anni strappa al marito un accordo che le permette di andare a vivere a Parigi, dove si trasferisce con Jules Sandeau, che nel frattempo di anni ne ha 19, un po' un toy boy, diciamo. E come abbiamo detto, lei è una donna pratica, non le ci vuole molto per capire che ha bisogno di trovare un lavoro per integrare la rendita che le sta passando il marito. Nel giro di una settimana si procura la possibilità di diventare giornalista per Le Figaro, 7 franchi a colonna, non è una grande vittoria. Lei parla del giornalista come la professione più degradante del mondo, insomma qua ci serve da discutere, a volte è vero, a volte no. Tra l'altro è inutile dire che è l'unica donna del giornale. E per fare quadrare il bilancio ha un'idea: scrivere un libro assieme al suo amante, e utilizza uno pseudonimo, Jules Sand, un nome breve, una dimostrazione d'amore, perché sceglie le prime 4 lettere del cognome dell'amato Sandeau, Sand, e le prime opere sono Le Commissionnaire e La Rose Blanche. Presto però lei si trova a scrivere senza l'amante, che evidentemente dei due è quello che di gran lunga ha meno talento, e il primo prodotto è interamente dovuto, diciamo, alle sue fatiche, è un libro intitolato Indiana, scritto con la deliberata intenzione di guadagnarci dei soldi, e questa volta però si firma solo lei, George Sand, d'ora in poi la chiameremo così anche noi. Il falco, il falco, il falco, e il gabbiano, e il gabbiano, e il gabbiano. stiamo raccontando Aurore Dupin, che a questo punto della nostra storia è diventata George Sand, forse l'unica, di sicuro la più importante scrittrice francese di metà Ottocento, nata da un aristocratico e da una popolana, allevata dalla nonna paterna nel castello di Nohant, dove respira non tanto lusso quanto illuminismo e profondità interiore. Allena la mente ma anche il fisico, indossa vestiti maschili per andare a cavallo, insomma è una donna particolare, fuori dal comune, anticonformista, assetata di conoscenza. Lascia un marito noioso e se ne va appunto a Parigi alla ricerca di novità e di conoscenza, e inizia a scrivere, e assume lo pseudonimo di George Sand e trova compagnie interessanti, avvenimenti culturali che la stimolano, orizzonti che stanno ampliandosi sempre di più. Dopo i primi tentativi compiuti assieme al suo giovane amante Jules Sandeau, si sente pronta a scrivere il suo primo romanzo da sola. Nasce Indiana, pubblicato nel maggio del 1832. Il libro ha subito un enorme successo per la sua capacità di sondare l'animo femminile. L'eroina del libro è presentata come una tipica donna senza autostima, incapace di riconoscere la vera fonte della sua felicità e per questo ingannata dagli uomini, perché eccessivamente dipendente dall'amore. La gente pensa che sia normale, quando si tratta di donne, di scherzare con quanto c'è di più sacro per loro. Le donne non hanno peso nell'ordine sociale e morale. Allora io dichiaro solennemente, e questo è il primo sprazzo di ambizione e di coraggio della mia vita, che attraverso me stessa e la mia opera innalzerò le donne dalla loro posizione abietta. Prego Dio che mi aiuti, che la schiavitù femminile abbia il suo Spartaco. Fa che io vinca o perirò nell'intento. E il romanzo le porta subito grande notorietà, non solo presso il pubblico, ma anche e soprattutto nei confronti del ristretto gruppo di letterati maschi che in qualche modo detengono le chiavi del mondo culturale della Francia degli anni 30, di due secoli fa. Lei è una donna intelligente, ha capito bene che quello che intriga i suoi colleghi, oltre alle sue capacità, è proprio l'ambiguità della sua persona, e si fa concedere dalla prefettura di polizia il permesso di travestirsi da uomo, e già a quei tempi ci voleva addirittura un permesso, oggi vale tutto, e da quel momento se ne va in giro in pantaloni e panciotto, e questo lo fa non solo per farsi accettare da un mondo prevalentemente maschile, lo fa anche per epatele bourgeois, si direbbe, insomma per provocare, ma anche per praticità, perché i vestiti maschili costano molto meno di quelli per le donne e lei non nuota nell'oro, forse anche un po' braccino, e insomma l'espediente si rivela una manna. La notorietà, come sempre accade, le porta anche l'amore, o quantomeno le porta gli uomini, e non solo quelli. Archiviato, Sandeau ha una storia con lo scrittore Prosper Mérimée e poi con un'attrice molto famosa all'epoca, Maria Dorval. Scrive a un amico: posso solo dire che ne sono folle, senza togliere nulla alla mia tenerezza per voi. Insomma, un colpo al cerchio. E un'altra, ma è una storia breve questa, che lascia il posto a una grande passione, anche questa volta per un uomo molto più giovane di lei, il poeta Alfred de Musset. Passione trascinante, tormentata, con i due che si tradiscono reciprocamente, litigano, viaggiano, si lasciano, si riprendono. È un inferno che dura poco meno di due anni, si conclude nel 1835 e lascia entrambi segnati per sempre. De Musset, più tardi, De Musset che morirà giovane, rovinato dalla droga, dall'alcol, lui dirà di lei: non eri che mia madre. E questa insomma è una cattiveria. Lei è più generosa, lo testimonia una bella lettera di cui vi faccio ascoltare la fine. Forse il tuo nuovo amore sarà più romantico e più giovane, ma il tuo cuore, il tuo buon cuore, non lo proteggere. Te ne prego, che si metta tutto intero in tutti gli amori della tua vita, fino a quando un giorno tu possa guardare indietro e dire come me: io ho sofferto spesso, mi sono sbagliata qualche volta, ma io ho amato. La verità è che la Sand non è una donna facile, non è una libertina, e anche se si comporta come tale, sì, perché è quel tipo di donna, ce ne sono molte, che ha questi colpi di fulmine, quindi in qualche modo ha la convinzione ogni volta di avere trovato l'amore, quello vero, poi ci rimane male e passa da un'altra parte, e quindi magari viene scambiata anche per donna leggera. La storia con De Musset le insegna però che non è importante seguire solo le passioni, ma è importante affermare la propria indipendenza, e lì in questo campo lei è una fuori classe. Si separa definitivamente dal marito, lo porta in tribunale, riesce a riottenere le sue proprietà, soprattutto il castello di Noant, quindi cessano le sue preoccupazioni economiche, e peraltro nel frattempo la sua fama di romanziera è ben consolidata. Dopo Indiana pubblica L'Elia, che se possibile ottiene un successo ancora maggiore della prima opera. Intanto lei frequenta i migliori salotti di Parigi, è amica di Victor Hugo, di Balzac, di Alexandre Dumas e anche di musicisti. Attraverso De Musset conosce il celebre pianista ungherese Franz Liszt e la sua compagna Marie Dagoule. E fra Liszt e la Sand nasce una bella amicizia, questa volta pare assolutamente platonica. Si scambiano molte visite. Attraverso il giro di Liszt, nel 1836 conosce un giovane compositore polacco, più giovane di lei di 6 anni, si chiama Frédéric Chopin. All'inizio lui non è che rimanga molto colpito, scrive anche una lettera molto perplessa a un amico. Che donna antipatica, la Sand. Ma è davvero una donna? Quasi quasi mi viene da dubitarne. Il suo viso non mi è simpatico e non mi è piaciuta per niente. C'è in lei perfino qualcosa che mi allontana. Ma George Sand è una donna volitiva, non molla, viene colpita dal fulmine della passione e va avanti fino a quando lui non cede. E nel 1838 i due diventano amanti, e Chopin peraltro si sta leccando le ferite perché è stato lasciato da Maria Wodzinska, la giovane polacca che aveva chiesto in moglie, è molto abbattuto. Lei nel frattempo invece scrive una chilometrica lettera a un amico, 5.000 parole, e in questa lettera racconta della sua passione, ma anche degli scrupoli che si fa riguardo al giovane pianista e al suo mal d'amore. Se è felice e può essere felice solo con lei, lascialo fare. Se deve essere infelice, impediscilo. Se può essere felice con me senza essere infelice con lei, dobbiamo evitarci e dimenticarlo. Non c'è via d'uscita da questi 4 punti. Sarò forte per questo, te lo prometto, perché riguarda lui, perché forse non ho grandi virtù, ma almeno ho una grande dedizione per coloro che amo. C'è un quadro molto famoso del pittore Delacroix che immortala la relazione tra i due. Sono seduti vicini, Chopin al piano e lei è seduta su una sedia accanto. Dietro c'è una tenda rossa drappeggiata, forse proprio a simboleggiare il rosso della passione nata tra i due protagonisti della tela. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. George Sand e Frédéric Chopin rimarranno assieme 9 anni. La loro è una relazione particolare, lei lo adora, è materna, si prende cura di questo genio malaticcio, malinconico, timido, riservato. Lui aveva trascorso la sua infanzia in Polonia, aveva abbandonato la madre patria, la Polonia, per venire in Francia. È preceduto dalla sua fama, era entrato nei circoli più ambiti di Parigi e lì aveva incontrato questa donna energica. Insomma, due persone diversissime, forse però la molla di attrazione stava proprio nella loro diversità. E Chopin a 28 anni sembra ancora più giovane, fragile e cupo, è molto diffidente. Alla fine si concede alla scrittrice e a quel punto ritiene di avere trovato un porto sicuro dove essere accolto, protetto dalle tempeste della vita. Lei sforna i suoi libri a ritmo continuo e lui produce la sua musica, anche se in maniera molto più sofferta, lo scrive anche la Sand nelle sue memorie. La sua creazione era spontanea, miracolosa. La trovava senza cercarla e poi cominciava la fatica più snervante a cui abbia mai assistito. Si rinchiudeva nella sua camera per intere giornate, piangendo, camminando, spezzando penne, cambiando 100 volte una misura, scrivendola, cancellandola, ricominciando l'indomani con una perseveranza minuziosa e disperata. Passava 6 settimane sopra una pagina per tornare a scriverla come l'aveva tracciata al primo colpo. Poco dopo l'inizio della loro relazione, la Sand e Chopin hanno l'idea di trascorrere un inverno a Maiorca, nelle isole Baleari. Pensano che il clima possa giovare alla salute malferma di Chopin. E l'idea però si rivelerà poco brillante. Intanto l'isola è umida e fredda, piove sempre e poi i locali non vedono di buon occhio questa strana coppia, dove c'è lei troppo spregiudicata e lui troppo timido. A Maiorca Chopin si ammala di bronchite che poi diventerà tubercolosi. Insomma, il suo fisico già gracile si indebolisce ulteriormente. E qui però, nonostante le difficoltà, Chopin riesce a comporre i celebri preludi, tra questi quello in mi minore opera 4, che proprio se lo ascoltate, insomma, riflette la malinconia di quelle giornate fredde e piovose. La coppia decide di tornare in Francia con un mese d'anticipo sul previsto, anche perché c'è sempre il castello di Nohant a accoglierli con la sua calma, la sua storia, la sua bellezza. Qui Chopin si riprende, trascorre giornate molto più serene, compone molto. C'è un solo problema, l'antipatia tangibile che gli dimostra il figlio di George Sand, Maurice. È tutto il contrario di quello che succede invece con la sorella di Maurice, Solange, che ha un grande affetto per il compositore polacco, affetto che rimarrà inalterato anche dopo che lui e la madre si lasciano. In realtà è anche a causa di Solange che la coppia si sfascia, perché lei si invaghisce di uno scultore ospite della madre, un certo August Schlesinger, e per amore di quest'uomo rompe un fidanzamento precedente. Chopin è contrario al matrimonio, insomma si immischia perché sente che l'uomo non è adatto a Solange. George Sand, impetuosa, appoggia l'unione, però aveva ragione Chopin, perché dopo qualche mese il matrimonio si dimostra pessimo, e quindi in qualche modo, insomma, questi attriti fanno precipitare anche la relazione tra Chopin e la Sand. Lei non gli perdona di essersi intromesso negli affari di famiglia. Insomma, Chopin viene abbandonato a se stesso, privato delle cure, privato di questa sensazione per lui importantissima di avere attorno una famiglia, e muore dopo 2 anni, nel 1849. E dopo la relazione con Chopin, George Sand continua a scrivere, ma anche a avere relazioni. La più lunga durerà 15 anni. Come al solito, è un uomo più giovane di lei, si chiama Alexandre Manceau, ha 17 anni in meno, è un giovane incisore, amico del figlio Maurice, tanto per dire. Sono anni sereni, intensi, pieni di attività anche politica. Lei è una repubblicana, è un anticlericale. Nel 1841 fonda la Revue Indépendante, è una rivista barricadera, diciamo. Conosce Flaubert, diventa sua grande amica, appoggia la rivoluzione del 1848, ma quando anni dopo i parigini istituiscono la Comune dopo la sconfitta della Francia da parte della Prussia e la perdita dell'Alsazia e della Lorena, lei in qualche modo condanna questo esperimento. Poi nel 1873 la propongono per la Legione d'Onore. Lei rifiuta con un messaggio molto spiritoso al ministro, che era un suo amico. Non fatelo, caro amico. No, non fatelo, per favore. Mi renderebbe ridicola. Pensateci, mi vedete con un nastro rosso sulla pancia. Assomiglierei a una vecchia locandiera. Muore nel 1876, la figlia pretende funerali religiosi che contravvengono un po' a quello che aveva caratterizzato la madre in vita. Lei, così repubblicana, anticlericale, con le opere messe all'indice dalla Chiesa, una donna libera, contraria al matrimonio, che considerava un errore, che pone la donna sotto la dipendenza dell'uomo. Ma soprattutto muore una scrittrice, 143 romanzi e racconti, 24 commedie, una grande donna. Flaubert disse: bisognava conoscerla come l'ho conosciuta io per sapere tutto ciò che c'era di femminile nel cuore di questo grande uomo. George Sand, la dimostrazione che spesso si vola contro vento, contro tutto e contro tutti. Una vita piena di colpi d'ala e anche a suo modo piena d'amore. Se volete mandare dei commenti, scrivete al Falco e il Gabbiano @radio24.it, visitate tutte le nostre pagine social e non, insomma, se volete. Sapete dove sono. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.